Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Bentrovati cari amici di Ferry Boat, almeno spero che lo diventerete. Ferry Boat è traghetto in inglese e ci servirà per un viaggio verso quella che si chiama economia sociale, qualcuno lo chiama green economy. In ogni caso parliamo di energia alternativa, di acqua, di edilizia passiva, di bollette azzerate magari, di detersivi sfusi, di stoviglie biodegradabili. Stiamo parlando di un nuovo modo di fare business che si accompagna alla grande crisi che stiamo vivendo, ma soprattutto anche ad un'altra minaccia che nell'orizzonte si profila e sulla quale non ci sono le idee assolutamente chiare. Il nostro primo ospite della nostra prima puntata parla proprio di energia, perché è dell'automobile che parliamo oggi, del prodotto top, del prodotto emblematico, del prodotto che definisce gli stili di vita e gli stili di consumo. Apriamo questa trasmissione sull'auto cominciando a cercare di sciogliere un nodo. È vero o no che il petrolio sta per finire? Sì, dice Jeremy Rifkin, grande futurologo. No, dice il meno conosciuto, ma sicuramente molto più tecnico, Massimo Nicolazzi, consulente di idroeconomico da 20 anni nel mondo degli idrocarburi e soprattutto scrittore. Il suo libro Il prezzo del petrolio uscirà fra pochi giorni con la Boroli Editore. Massimo Nicolazzi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, eccoci. La teoria di questo libro che leggeremo tutti è che invece non se ne parla proprio. Il petrolio non si esaurirà mai. È così? Beh, non è proprio così, ma più che altro il libro cerca di dire che forse bisognerebbe cambiare la domanda. Quello che noi oggi abbiamo estratto è, secondo le stime più ottimistiche, un terzo circa del petrolio di cui potremmo disporre, secondo le stime più pessimistiche più o meno la metà. Il tema però non è un tema di volumi, è un tema di prezzo. Cioè ci sarà un giorno nel quale tirarne fuori di ulteriore costerà tanto che dovremo farne a meno e passare a qualcos'altro. Lei pensi che oggi noi abbiamo un fattore di recupero medio dai giacimenti, vuol dire tiriamo fuori dai giacimenti il 35% del petrolio che c'è. Il rimanente 65% resta dentro perché costa troppo strizzare la roccia per tirarlo fuori. Almeno per il momento, fin quando la tecnologia non sarà in grado di usare anche quello, immagino. Questo sì, però avrà comunque un limite fisico, perché lei non può tirar fuori la roccia da 8.000 metri e spremerla come se fosse un'arancia, per cui un limite fisico su questo ci sarà sempre. Ci sarà però una curva di prezzo che a un certo punto deciderà la sostituzione e la fine. Ma la teoria secondo la quale invece il greggio si riproduce costantemente nel centro della Terra è soltanto una suggestione, allora? Questa è una meravigliosa vecchia teoria russa e poi sovietica sull'origine abiogenica degli idrocarburi, che ha pochissimi seguaci oggi e vorrei dire nessuna prova scientifica con la quale corredarsi. Quello che noi sappiamo per certo è che la maggior parte del greggio che noi usiamo ha sicuramente origine biotica, perché ci troviamo dentro dei resti di vegetali che non possono essere saliti dal centro della Terra, ma possono essere solo discesi dalla superficie terrestre. Comunque sarebbe una pessima notizia per gli ambientalisti, per gli ecologisti, se fosse così, visto che il petrolio comunque, nonostante i grandi balzi che la tecnologia ha fatto fare all'uomo, rimane ancora un'alimentazione sporca. Sì, e poi il tema è sempre costi-benefici, voglio dire, il petrolio si sta spostando sempre di più come utilizzo sui trasporti dopo essere stato un combustibile universale. Oggi il 50% di quello che consumiamo lo consumiamo per infilarlo nei motori di qualcosa che si muove, negli Stati Uniti siamo al 70%. Abbiamo un problema di sostituzione, non siamo mai riusciti a inventarci niente che a parità di peso e di volume possa sprigionare altrettanta energia, e quindi il petrolio è in qualche modo l'energia portabile per eccellenza. Lei può destinare più spazi e più magazzini ad altre fonti di energia quando la usa da fermo, ma se se la deve portare appresso lei ha bisogno che la sua fonte sia leggera e faccia molta energia con poco volume. È un po' dura far andare un aereo a carbone, insomma. Decisamente, grazie Massimo Nicolazzi. Forse è anche per questo che personaggi che se ne intendono di automobili, non so, Giugiaro per esempio, da tutti definito il re del car design dell'automobile, dice che la quattro ruote in realtà è ancora all'età della pietra, cioè la tecnologia di cui siamo in possesso, di cui l'uomo è in possesso, si è solo affacciata sulle quattro ruote, che rimangono un po' indietro, per esempio rispetto all'iPhone, dove il mondo intero attraverso internet è entrato in un piccolissimo apparecchio. Secondo Giugiaro, ma insomma secondo quello che la logica dovrebbe farci intravedere, questa webcar, la macchina online, sarà presto proposta ai consumatori. Intanto però, come abbiamo sentito da Massimo Nicolazzi, il problema più urgente da risolvere è far muovere queste macchine in maniera più economica e più pulita, che è sicuramente la grande sfida a cui tutte le case automobilistiche si stanno affacciando. La prima domanda a cui rispondere, e in questo ci facciamo aiutare dal direttore tecnico dell'autodromo di Monza, Giorgio Beghella Bartoli, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, ci facciamo aiutare da lei, che di macchine se ne intende, anche se di altro genere evidentemente. Il primo problema, dicevamo, è l'alimentazione, cioè come far muovere queste macchine in maniera economica, pulita e ovviamente con prestazioni brillanti, visto che il motore a scoppio non ha tutte queste caratteristiche. Ci sono delle alternative tecnologiche al motore a scoppio che, fra parentesi, accompagna l'uomo da 150 anni? Ma secondo me no, al momento, perché il petrolio e la benzina è sicuramente l'energia con la quale ci dovremo confrontare e misurare nei prossimi anni, ma della quale abbiamo sicuramente bisogno. Si tratta di sviluppare nuove tecnologie basate su eventualmente energie alternative, ma anche e soprattutto in questo momento su un'attenzione estrema ai comportamenti di guida, perché influiscono notevolmente sui consumi e di conseguenza sulle emissioni e in più anche sulle nostre tasche, e poi cercare di migliorare quella che è la tecnologia dei motori attualmente utilizzati. Gli ibridi piuttosto che altre soluzioni di questo tipo oggi sono effettivamente delle realtà con le quali ci dobbiamo confrontare, ma che ci confortano. La tecnologia è effettivamente ancora all'età della pietra. E di questi motori alimentati magnetici, motori a idrogeno, per non dire poi quelli solari, sono soltanto meraviglie tecniche che arriveranno o c'è qualcosa di concreto e di serio? No, concreto e serio deve essere la ricerca, perché se non facciamo la ricerca su questi settori non arriveremo mai a nulla. Ma pensare che queste tipologie di soluzioni possano essere disponibili in massa oggi o nel giro di qualche anno soltanto mi sembra un pochino ottimistico. Quindi sono energie che sicuramente l'idrogeno, stupenda, bellissima, si tratta di migliorare i sistemi di produzione dell'idrogeno. E di distribuzione anche, no? Certo, e di renderlo anche più accessibile alla gente, ma la tecnologia sarà, diciamo così, disponibile fra uno o due decenni. Non credo che si possa arrivare a far prima qualcosa da mettere a disposizione di tutti noi. Certamente però la ricerca deve essere portata avanti e lo sviluppo deve essere portato avanti, perché se ci fermiamo solo alla ricerca non andiamo da nessuna parte. Cioè non esiste la bacchetta magica, quindi bisogna lavorarci dietro, e più energie si trovano da mettere a disposizione per questo tipo di ricerca meglio è. Grazie all'ingegner Beghella Bartoli, anche se ovviamente non è che ci abbia proprio dato delle notizie fantastiche. 10-20 anni vista così, se partiamo da questo presupposto, il problema, soprattutto quello ambientale, è ancora lungo e difficile da risolvere. Motivo per cui dobbiamo forse premiare e dare spazio ed esaltare in qualche modo le iniziative che tendono a ridurre comunque il consumo della benzina, l'uso dell'automobile. Questa è la verità, ma anche, se non soprattutto, dal punto di vista delle imprese, che sono quelle che, movimentando le merci, movimentando una grandissima quantità di, per esempio, dipendenti e di lavoratori, possono intercedere, possono sicuramente provocare questa riduzione. È il caso dell'iniziativa assolutamente in linea con questi temi di Quattro Ruote, della rivista mensile leader dell'informazione sulle automobili, ed Emilio De Leidi, che è in linea. Buongiorno De Leidi. Buongiorno a voi. Buongiorno. Ci parla proprio di questa iniziativa che aveva come obiettivo, ed è stato centrale concentrata a pieno di indurre le aziende a promuovere la riduzione dei consumi. Cosa avete fatto? Cosa vi siete inventati? Abbiamo raccolto un gruppo di aziende in un progetto che si chiama 10x10, perché in origine si trattava di 10 aziende che si impegnavano attraverso di noi a ridurre del 10% le emissioni di CO2 della loro flotta di vetture. Vetture che, come hai detto, percorrono molti chilometri, consumano molto, fanno tanta strada e quindi hanno un impatto notevole, molto più di quelle dei privati, sulla circolazione. In realtà strada facendo le aziende sono diventate 30 e quindi abbiamo mantenuto il logo e l'obiettivo del 10%, ma stiamo parlando complessivamente di una flotta che riguarda oltre 66.000 automobili o veicoli in generale, che percorrono circa 1,7 miliardi di chilometri l'anno, emettendo 330.000 tonnellate di anidride carbonica, un valore stimato di questo genere. Ecco, che tipo di aziende, giusto per far capire a chi ci ascolta di che cosa stiamo parlando? Ma si tratta di grandi aziende, gruppi multinazionali, faccio qualche esempio, come Nestlé, Telecom, Vodafone, oppure del settore farmaceutico come Sanofi Aventis, oppure ancora banche come Intesa San Paolo, Italcementi, Europassistas, Enel, Terna e così via. Quindi aziende che hanno in genere una flotta molto importante o una flotta più piccola ma significativa per qualche aspetto. Per esempio Wurt, un'azienda del settore degli utensili di lavoro, è entrata recentemente, fa parte del gruppo, perché acquisisce una flotta di 1000 vetture a metano e quindi utilizzerà questa strategia per abbattere nei prossimi 12 mesi in maniera significativa le emissioni della propria flotta di vetture col gas naturale. Infatti mi stavo chiedendo con quali criteri, con quali sistemi l'azienda spinge, e tu ne hai appena spiegato uno. Certamente questo vuol dire che anche dal punto di vista culturale c'è una diffusione della cultura del risparmio energetico importante che avviene attraverso queste aziende. Sì, certamente lo stimolo era proprio quello di cercare di perseguire questi obiettivi con varie strategie. Una è quella appunto dell'uso di combustibili alternativi come il metano e il GPL, ma le aziende non sono ancora molto orientate in questo senso, anche perché non hanno gli incentivi statali che invece sono erogati ai privati. Quindi le altre strategie riguardano per esempio il cosiddetto downsizing, ovvero l'adozione nella car policy delle auto aziendali di modelli che hanno dimensioni, cilindrate, soprattutto consumi inferiori, perché ricordiamo che le emissioni di CO2 sono strettamente correlate ai consumi, quindi emettere meno CO2 significa anche consumare di meno e quindi spendere di meno, una cosa che in questa fase di crisi è gradita sia dal punto di vista ambientale che ed economico. Grazie Emilio Deledi di Quattro Ruote. Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Ecco, avete un po' sentito, certo fa specie, poi parlando di automobili, di risparmio energetico e tutto sommato anche di sganciare un po' l'uomo, la donna dalla dipendenza delle quattro ruote. Fa specie la notizia, non so, che arriva da Singapore, dove invece l'automobile non solo non viene mollata ma viene parcheggiata in realtà in salotto. Hanno costruito degli edifici, gli asiatici, un multiparker si chiama, dove l'automobile prende l'ascensore con noi, arriva e viene parcheggiata, dico, al di là della parete c'è la camera da letto piuttosto che il soggiorno, quindi un grattacielo di automobili veramente impressionante. Abbiamo visto perciò che il problema tecnologico dell'alimentazione a motore a scoppio è ancora lontano dall'essere risolto, che quattro ruote e molte aziende si stanno impegnando alla riduzione dei consumi. Certo, l'ambizione di tutti, e ne parliamo con Rossella Ceccattini di Dinamiche Research, che è in linea. Buongiorno Rossella Ceccattini. A voi tutti, bentrovati. L'ambizione è che invece qualcosa possa accadere, che come per esempio nelle telecomunicazioni possa da un giorno all'altro, fra virgolette ovviamente, arrivare a una soluzione tecnologica che sconvolge un po' le carte. Una di queste ambizioni è certamente l'auto elettrica, che sebbene si ricarica con l'energia prodotta magari dalle raffinerie, dal petrolio, però l'auto elettrica per definizione ha impatto zero, non emette CO2 e dovrebbe essere risparmiosa. Dinamiche Research ha fatto una ricerca su questo e la prima domanda è: c'è uno spazio reale, vero, operativo in Italia per l'auto elettrica, Ceccattini? Dalla ricerca che abbiamo realizzato emerge che la via di diffusione dell'auto elettrica ha ancora bisogno di alcuni ingredienti che in realtà nel nostro paese non ci sono ancora. La prima indicazione che deriva riguarda la carenza di infrastrutture, cioè la possibilità di effettuare la ricarica risulta un elemento fondamentale, in grado di orientare in positivo l'attrattività dell'automobilista all'acquisto di un'auto elettrica. Noi abbiamo cercato di ipotizzare un po' di scenari, non certo futuribili, perché appunto la realtà ci pone ancora a dei limiti, a immaginare parcheggi per la ricarica piuttosto che appunto infrastrutture che ci permettano di andare al di là, di caricare l'auto al di là del nostro garage o del nostro box. E un'altra indicazione della ricerca, forse ovvia ma interessante, che conferma, è che non è l'ecologia la vera molla del desiderio dell'auto elettrica. Beh, questo è abbastanza sorprendente. Qual è allora la molla? La molla è appunto il dare delle infrastrutture, dare all'automobilista la possibilità di continuare ad usare l'auto, tant'è che il profilo dei potenziali è proprio degli automobilisti meno virtuosi, quelli che lasciano meno o che sono costretti a lasciare meno l'auto a casa proprio per spostarsi. Un'altra fonte di attrattiva è quella del risparmio sui costi di consumo, è appunto coniugato all'assenza dei limiti della circolazione. Quindi, scusi, se non ho capito male, il rapporto l'auto elettrica alimenta la morbosità del rapporto con l'automobile, anziché, come tutti magari potevamo immaginare, in qualche modo sganciarsi da questo. Quindi elettrica mi piace perché la posso usare di più. Sì, la posso usare di più perché potrò entrare magari anche nel centro storico, perché avrò la possibilità appunto di muovermi come mi muovo ora. Tant'è che il profilo dei pionieri dell'auto elettrica sono proprio quelli che utilizzano l'auto per recarsi al lavoro e percorrono quotidianamente circa 60 km tra andata e ritorno. Possiedono in famiglia un numero di auto superiore alla media, quindi l'auto elettrica non sarebbe l'auto principale, e hanno il box che è essenziale per effettuare la ricarica. In genere chi appartiene a questo segmento ha una scolarità più elevata. È vero anche che la scolarità è correlata al fatto di essere più sensibili oppure più conoscitori dell'ambiente, dei problemi dell'ambiente e dell'ecologia. Ma paradossalmente sono proprio i comportamenti di quegli automobilisti, come dicevo prima, meno ecologicamente virtuosi, quindi meno disposti a rinunciare alle varie auto disponibili in famiglia. Chi aspira o chi potrà permettersi l'auto elettrica, insomma, deve avere anche un certo reddito, se non ho capito male. Esatto, sono quelli di status sociale un po' più elevato, scolarità elevata, persone centrali socialmente, tra i 35 e i 54 anni, quelli che appunto lavorano anche con l'auto. E invece dal punto di vista, diciamo così, del rapporto commerciale, cioè l'automobile elettrica si compra o si fa come il car sharing o il bike sharing, cioè si prende in affitto, ci saranno i comuni che si occuperanno di renderle disponibili a modiche cifre, eccetera, eccetera, eccetera? Dunque, come dicevo, la ricerca ha posto gli intervistati di fronte a degli scenari non futuribili, quindi degli scenari assolutamente realistici. Quella che è l'offerta commerciale, diciamo, più attraente è il noleggio piuttosto che l'acquisto. Diciamo che di fronte a uno scenario, a un'opzione messa davanti agli intervistati tra acquisto a 25.000 euro e un noleggio per un anno a 450 euro al mese, la scelta è caduta sul noleggio per 3 intervistati su 10. Uno solo ha preso in considerazione l'acquisto. È anche vero che parliamo di un noleggio della durata di 24 mesi e di fatto comunque un possesso pieno della vettura, quindi comunque uno si deve sentire appartenente alla propria auto, questo non cambia. Grazie Rossella Ceccattini, ci rivedremo sicuramente su questi temi. Voi capite perché noi parliamo di viaggio verso l'economia sociale? Non è solo una questione tecnologica, di cambiamento di stile nell'uso con l'automobile, è che proprio, per esempio, l'arrivo dell'automobile elettrica cambia anche la mentalità, l'approccio, e questo è un po' il dato di fondo di questo viaggio che facciamo, che stiamo facendo e che faremo con Ferribot, perché l'economia sociale, la green economy, modifica proprio i comportamenti e anche le angolature di visuale. Per esempio, abbiamo capito in maniera inequivocabile che l'automobile in realtà è ancora uno strumento, un oggetto, un mezzo stupido, cioè non è tecnologicamente avanzato come tanti oggetti che fanno parte del nostro quotidiano, ma anche poi del nostro immaginario. L'automobile non è un'automobile che sfrutta appieno le potenzialità tecnologiche. Fortunatamente però c'è chi ci sta lavorando, forse ci sta lavorando solo adesso, non mi riferisco a Roberto Brignolo del Centro di Ricerche Fiat di Torino, che saluto, buongiorno. Non è certamente lei, voglio dire che il ritardo sembra un po' la scienza, la ricerca, ad essere stata un po' distratta nell'applicare le grandi tecnologie di cui siamo in possesso all'automobile. Anche lei la pensa così? Ma diciamo così che esiste già molta elettronica sulle vetture che controlla la maggior parte delle funzioni, quindi un miglioramento, un grosso miglioramento c'è già stato, ma la risposta diciamo più corretta di visione del futuro io la vedrei come un'auto che è sempre più intelligente su anche delle strade sempre più intelligenti. Si tratta di mettere questa intelligenza in termini di comunicazione e cooperazione tra i veicoli e cooperazione tra i veicoli e la strada, l'infrastruttura. Una rete vera e propria, insomma. Una rete, praticamente avere la macchina sempre connessa con tutti gli altri oggetti che si muovono sulla strada e le strutture fisse della strada. Ecco, andiamo nella questione di fondo di cui lei si occupa, di una ricerca per conto dell'Unione Europea, sì, che la mette in contatto con, lo dico per chi ci ascolta, con più di 200 ricercatori, credo di aver capito, nel mondo, di cui 40 sono italiani. L'obiettivo della sua ricerca è dare sicurezza, ma in maniera concreta, non passiva, diciamo, a chi viaggia in automobile. Certo. Voleva scrivere questa ricerca, certo, esattamente. Certo. Si tratta del progetto SafeSpot, di cui sono il coordinatore, e a vario titolo sono effettivamente coinvolti molti ricercatori che fanno parte di 52 organizzazioni distribuite in 12 paesi europei. È un progetto che è iniziato nel 2006 e finirà entro la metà del prossimo anno, ha un budget di spesa di 38 milioni di euro e 20 finanziati dalla Commissione europea. L'obiettivo è proprio quello, attraverso la comunicazione, la cooperazione, migliorare la sicurezza stradale. Si tratta di estendere in qualche modo il campo visuale dell'automobilista in modo virtuale attraverso la comunicazione, così si può percepire un'auto dietro ad una curva o dietro un dosso. Cioè, concretamente questo cosa vuol dire? Che io nella mia automobile, mentre sto viaggiando, c'è qualcosa che mi segnala la presenza di un'altra automobile che per esempio rischia di scontrarsi con me? Esatto, è proprio questo. E che cosa succede? L'automobile come reagisce, la mia auto, di fronte al pericolo? Allora, noi ci stiamo concentrando su un'attività di warning e quindi dare tempestivamente un avviso al guidatore. Esistono già sistemi basati su sensori molto rapidi per anche fare delle azioni, ma diciamo che in questa fase noi ci stiamo concentrando sul warning, che già dovrebbe essere un valido mezzo per prevenire gli incidenti. La tecnologia che si usa è una tecnologia derivata dal Wi-Fi, quello che utilizziamo normalmente per connettere i nostri computer via wireless, e tutti i veicoli inviano i loro dati, in questo modo loro dati di posizione e velocità. Capiamo cosa sta succedendo e generiamo questo warning. Questo è quello che succede sostanzialmente nel nostro sistema. Quello che succede, quello che potrebbe succedere o forse succederà fra breve, è che diciamo l'automobile che potrebbe essere frenata, prototipi. Giusto? Sì, esatto, quello che succede nei nostri prototipi, che attualmente sono allo stadio di prototipi. Alla fine del progetto avremo sicuramente fatto un passo avanti, ma non avremo risolto chiaramente tutti i problemi, perché si tratta da una parte di risolvere queste sfide tecnologiche, di valutarne poi anche l'affidabilità, che richiederà un grosso processo di sperimentazione. Dall'altra abbiamo bisogno di un grosso sforzo a livello cooperativo, proprio tra nazioni, tra persone, tra organizzazioni. Il numero di attori coinvolto è molto alto, perché il sistema deve essere standard, uguale per tutti, quindi devono essere d'accordo tutti i costruttori automobilistici, gli operatori stradali, le autorità pubbliche. Le prospettive comunque sono sicuramente interessanti. Giappone e USA sono partiti un po' prima dell'Europa, ma noi diciamo che stiamo recuperando. E io penso, quello che stiamo dicendo nel nostro progetto, che diciamo dal 2015-2016 si potranno cominciare a vedere i primi benefici, per arrivare attorno agli anni 2020, in cui questi sistemi potrebbero avere già una notevole diffusione. Beh, insomma, sono prospettive di lungo termine, insomma, direi molto promettente. Sì, in lungo termine, 2020 in realtà, vuol dire sono 12 anni, esatto. Per cui i nostri figli sicuramente ne beneficeranno. Si capisce da come parla lei di quanto sia, come dire, enorme il progetto e di quanti soggetti coinvolga. D'altronde in ballo ci sono, credo, milioni di vittime ogni anno per la mancanza di sicurezza. Certamente questo progetto va in quella direzione. Grazie a Roberto Brignone, complimenti, perché questo centro ricerca Fiat fa parte di quel, ahimè, modesto elenco di soggetti italiani di cui possiamo essere orgogliosi nel mondo. A presto, grazie. Ferribot si ferma qui, abbiamo parlato di automobili del futuro, come avete visto, sentito dell'automobile, un futuro che si preannuncia ricco di novità tecnologiche in grado di preservare la nostra sicurezza. Grazie, arrivederci.